essere mia. Se non è per la vita, vuol dire che è per finta. T-Max in penna per la via, sogna la bella vita, scorda quella di prima. In penna come a Marsiglia, come a Sava Sava, facciamo insieme mattina. Non voglio farti del male o rovinarti l'aspettativa. Sono solo un criminale che vende la cocaina. Pensa a fare una rapina e guida senza patente. Non ha niente tra le dita, la vita non gli ha dato niente. Insegnami come si mente, un criminale promette anche ciò che non può permettersi. Avrei fatto tarantelle solo e soltanto per metterti addosso borse di Hermès, ma non era nei tuoi interessi. Tu hai conosciuto tuo padre il giorno che è uscito agli arresti. Per questo vuoi uno che resti, si stringe quando ci pensi. Madame, come fa essere mia? Se non è per la vita, vuol dire che è per finta. T-Max in penna per la via, sogna la bella vita, scorda quella di prima. T'es pas de salope dans la clique. Et l'inspecteur il a une tête à claque. C'est pas tout bé pour un Glock. C'est pas la bagarre pour un choc. Soit tu l'aimes pour un check. Si tu es des jambes pour un bloc. Bloc, bloc, bloc, bloc. Entre nos idées seules personne en soc. Soc, soc, soc, soc. Ça sonne électrique à libre dans le froc. Ça sonne électrique à libre dans le froc. Che per finta T-Max in penna per la via, sogna la bella vita, scorda quella di prima.